Lolita in mezzo a cuore, e questo ha creato una confusione mentale che mi ha portato a una creatività, credo, abbastanza schizofrenica. Spiccato, ma sì. Popolare. Tutto ecco. Qui. Allora, io vorrei iniziare da cuore, perché cuore, vabbè, è libro popolare, libro in cui c'è un affresco di una società che non c'è più. Però se dovessimo dire chi è Franti oggi è abbastanza semplice, no? Ce ne sono parecchi di Franti, mentre invece Garrone, non so, mi viene un po' più difficile da trovare. Garrone. Non lo so, non riesco a trovare dei riferimenti in quell'Italia di allora. Io penso che non fosse un libro scritto sull'Italia di allora. Penso, immagino, perché io i libri li immagino, non li riesco a analizzare oltre la mia immaginazione, che fosse un libro scritto per costruire un'Italia. Un'Italia fatta di buon senso, di coraggio. Dopodiché non trovo oggi né dei Garrone né dei De Rossi, forse un Muratorino lo trovo, ma un Franti non lo so. Io devo dire la verità, quando io leggevo questi due libri, io mi identifico quando leggo un libro, per cui io all'inizio ero il protagonista di cuore, che però usciva e andava in bagno con Lolita. e ritornava, tutto torna lì. Tutto torna qui. Dopodiché, col tempo, sono diventato Franti. Come credo di aver avuto dei problemi, perché credo di aver amato delle ragazze giovani da uomo maturo, e adesso da uomo maturo, più che maturo, amo le ragazze da ragazzino, quindi mi sono creato dei problemi con questa commissione. Ecco, ma Lolita fu un libro anche censurato, anzi potentemente censurato, appena che uscì praticamente, diciamo non uscì, venne poi scoperto qualche anno dopo, quindi diciamo il tema... Io non lo sapevo. Venne censurato perché, diciamo, certo. Per ovvi motivi. Nessuna bambina si è chiamata più Lolita dopo. Io ho avuto un cane che ho chiamato Lola, ma questo è un altro discorso. Ecco, ma oggi, secondo te, Paolo, un libro come questo verrebbe censurato? Non censurato, però molto criticato. Anche perché probabilmente entrerebbe in una problematica molto più complessa di quella del romanzo. Io credo che lì si parli di una passione, ripeto, è chiaro, io mi identificavo nella voce in prima persona e quindi avevo 11 anni e quindi amavo una più vecchia di me, di 14, quindi non posso dire i problemi adesso, però credo di sì, anche se credo che nei meandri oscuri della mente andrebbero esplorate certe tipo di passioni. Vicendevolmente, non solo da una parte. E poi questa è una storia dura, è una storia che finisce male. Come... Io non mi ricordo come finisce, non so neanche se è arrivata alla fine. Infatti chiedevo, ma chi ha ammazzato lui alla fine? Lui, lei o... poi me la racconto. Forse non sono mai arrivato alla fine. Alla fine di quale sono arrivato? L'ho letto più volte. Alla fine di Lolita? No, non credo. Lo leggevo veramente di rapina. Avevo sentito questi discorsi, ero un ragazzino, da mio padre, da un altro amico, questo libro è un libro, per cui chiaramente ero portato verso il proibito. Personaggio principale. Humbert il canterellante, tempo. Una domenica mattina di giugno, luogo, un salotto baciato dal sole. Arredi, un vecchio sofà a strisce, riviste, grammofono, ninnoli messicani. Quel giorno Lo indossava un grazioso vestito di cotone stampato, che l'avevo già visto una volta. Gonna ampia, corpetto aderente, maniche corte rosa a quadretti d'un rosa più scuro. Per completare l'insieme cromatico si era messa al rossetto e teneva nelle mani a coppa una bellissima, banale mela rosso Eden. Niente scarpe della domenica, però. E la borsetta bianca giaceva abbandonata accanto al grammofono. Il mio cuore cominciò a battere come un tamburo quando lei si sedette vicino a me sul sofà. La sottana leggera si gonfiò come un pallone per afflosciarsi di nuovo e Lo si mise a giocare col suo frutto lucente. Lo lanciava nell'aria impolverata di sole, poi lo afferrava. Nelle sue mani faceva un convesso levigato. Humbert Humbert intercettò la mela. Sentì sotto la punta aguzzante delle mie dita i minuscoli peli che li si rizzavano impercettibilmente sugli stinchi. Mi perdetti nel calore acre ma sano che aleggiava intorno a Lo come una bruma estiva. Fa che non si alzi, fa che non si alzi, fa che non si alzi. Mentre si allungava per gettare nel caminetto il torsolo della mela esaurita, il suo giovane peso, le sue tibie spudorate e innocenti e il suo sederino rotondo si spostarono sul mio grembo teso, torturato, surrettiziamente operoso, e tutto a un tratto i miei sensi soggiacquero a un arcano cambiamento. Mi trovai in una dimensione dell'essere nella quale nulla importava se non l'infuso di gioia che andava fermentando dentro il mio corpo. Ciò che era cominciato come una deliziosa dilatazione delle mie fibre più intime divenne un ardente formicolio che ora aveva raggiunto uno stato di assoluta fiducia, sicurezza e impunibilità, altrimenti inesistenti nella vita conscia. Quella profonda, torrida sensazione di dolcezza era così consolidata e prossima all'estremo sussulto che mi parve di potermi frenare per prolungarne l'incandescenza. Mentre spremevo contro la sua natica sinistra l'ultimo spasimo dell'estasi più lunga che un uomo o mostro avessero mai sperimentato, subito, come se dopo esserci azzuffati io avessi allentato la presa, Lo rotolò via dal sofà e balzò in piedi, o meglio su un piede solo, per rispondere al formidabile squillo del telefono che per quanto mi riguardava poteva anche aver suonato da secoli. Ma ce n'è un'altra che mi piace pure. La maestrina della prima inferiore numero 3. Quella giovane col viso color di rosa, che ha due belle pozzette nelle guance e porta una gran penna rossa sul cappellino e una crocetta di vetro giallo appesa al collo. È sempre allegra, tiene la classe allegra, sorride sempre, grida sempre con la sua voce argentina che par che canti, picchiando la bacchetta sul tavolino e battendo le mani per impor silenzio. Poi, quando escono, corre. Corre come una bambina, dietro all'uno, all'altro per rimetterli in fila, e a questo tira sul bavero e a quell'altro abbottona il cappotto perché non infreddino. Li segue fino alla strada perché non s'accapiglino. Supplica i parenti che non li castighino a casa. Porta delle pastiglie a quei che ha la tosse, impresta il suo manicotto a quelli che han freddo ed è tormentata continuamente dai più piccoli che le fanno carezze e le chiedono dei baci, tirandola per il velo, per la mantiglia, ma essa li lascia fare, li bacia tutti ridendo e ogni giorno ritorna a casa arruffata e sgolata, tutta ansante e tutta contenta, con le sue belle pozzette e la sua penna rossa. Bravo, veramente. Poi volevo fare i complimenti per questo passaggio. Hai fatto un grandissimo passaggio. Tanto che non so più se il più perverso è De Amici o Nabokov. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico. Cuore e Lolita tornano dopo la pausa con i ricordi di Paolo Rossi e le voci degli attori del Piccolo Teatro di Milano. Pagine per il futuro. Oggi è venuto a casa Garoffi. Quello lungo, magro, col naso a becco di civetta e gli occhi piccoli, furbi, che par che frughino per tutto. È figliuolo d'un droghiere. È uno bello originale. E gli conta sempre i soldi che ha in tasca. Conta sulle dita, lesto lesto, e fa qualunque moltiplicazioni senza tavola pitagorica. E rammucchia, rammucchia. Ha già un bel libretto della cassa scolastica di risparmio. Sfida, non spende mai un soldo. E se gli casca un centesimo sotto i banchi, è capace di cercarlo per una settimana. Fa come le gazze, dice De Rossi. Tutto quello che trova, penne logore, francobolli usati, spilli, colatici di candele, tutto raccatta. Sono già più di 2 anni che raccoglie francobolli. e ne ha già delle centinaia d'ogni paese, in un grande album che venderà poi al libraio, quando sarà tutto pieno. Intanto il libraio gli dà i quaderni gratis perché gli conduce molti ragazzi alla sua bottega. In scuola traffica sempre. Fa ogni giorno vendite d'oggetti, lotterie, baratti, poi si pente del baratto e rivuole la sua roba. Compra per due e smercia per quattro. Gioca ai pennini e non perde mai. Rivende giornali vecchi al tabaccaio e ha un quadernino dove nota i suoi affari tutto pieno di somme e di sottrazioni. Ma quello che gli sta più a cuore è la sua collezione di francobolli. Questa è il suo tesoro, ne parla sempre, come se dovesse cavarne una fortuna. I compagni gli danno dell'avaraccio, dell'usuraio, io non so. Io gli voglio bene. Mi insegna molte cose, mi sembra un uomo. Ora mi trovo di fronte all'odioso compito di registrare un netto peggioramento nella morale di Lolita. Considerando che lei riceveva costantemente da me ogni sorta di regalini e non aveva che da chiedere. Qualsiasi dolcetto, film sotto la luna. E capitava, va da sé, quando, sapendo che si struggeva per un puerile divertimento, che le chiedesse amorosamente un bacio. Un bacio supplementare. O anche tutta una gamma di carezze assortite. Tuttavia, trattare con lei non era facile. Guadagnava con grande svogliatezza le sue 3 monetine quotidiane da 1 centesimo, poi le 3 da 5 centesimi, e si dimostrava una negoziatrice spietata ogni volta che aveva la facoltà di negarmi certi devastanti, strani, lenti filtri paradisiaci, senza i quali non potevo vivere più di qualche giorno di seguito. E che proprio per la natura del languore amoroso non potevo ottenere con la forza. Conoscendo la magia e la potenza della sua morbida bocca, riuscì in un solo anno scolastico a far salire la gratifica per un amplesso fantasioso a 3 e addirittura a $4. Oh lettore, no, non ridere mentre mi immagini sulla ruota di tortura del piacere, nell'atto di emettere rumorosamente monetine e massicci dollari d'argento come una rumorosa, tintinnante macchina impazzita che vomiti ricchezze. Io credo che quella povera bambina dagli occhi feroci avesse calcolato che con soli $50 nella borsetta avrebbe raggiunto in qualche modo Broadway o Hollywood. O la lercia cucina di una tavola calda cercasi personale in un sinistro stato delle ex praterie, sotto raffiche di vento e stelle ammiccanti, e le macchine, e i bar, e i barman, e ogni cosa insozzata, dilaniata, morta. Senti, tornando a cuore, tu dicevi che quella... che forse l'idea Amicis era quella di raccontare una storia di unità italiana, diciamo, a mettere tanti personaggi che in qualche modo davano uno spaccato, c'era il ricco, veramente ricco, il povero, disgraziato, ma anche lo stesso maestro, certo, che doveva tenerli tutti a bada, in realtà anche lui era un povero disgraziato, insomma, questo maestro Perboni che dice a loro, insomma, siete, io non ho nessuno, siete voi la mia famiglia, insomma. Non lo so, io ho sempre avuto questo rapporto con la letteratura, cioè che io mi immaginavo di vivere le cose che leggevo, e quindi quando io ho letto Cuore, io vedevo la mia classe come cuore e mi identificavo nel primo personaggio, nella voce narrante. Dopodiché le cose sono cambiate, come sono cambiato io rispetto a Lolita, sono cambiato rispetto, prima ero quello buono, poi sono diventato Franti. Io mi ricordo, io vedevo la mia classe ancora, anche alle superiori, come cuore, cioè mettevo i nomi ai vari personaggi. Poi un giorno, era 70, contestazione che nasceva in Italia, perché 68 qui è arrivato 2 anni dopo. E la professoressa, che mi ricordava molto la maestrina dei capelli rossi, c'erano quelli fuori di quinta, io ero in prima, che dicevano fuori, fuori, e dice: chi si vuole alzare si alzi ed esca. E io mi sono alzato convinto, stavo in primo banco per l'altezza più che altro, e pensando che si alzassero tutti, mi alzo, c'ero solo io, a quel punto non potevo tornare indietro, dovevo seguire la regola della piccola vedetta lombarda, cioè coraggio fino all'estremo. Quindi mi ha fatto mascotte e mi ha messo sul tetto a vedere se arrivava la celere da Padova, perché non c'era la polizia a Ferrara. Quando è arrivata la polizia, e lì ho avuto il primo scontro con la burocrazia di sinistra, sono andato in assemblea e ho detto, dovrei dire una cosa, mettiti in fila. E ho detto, va bene, mi metto in fila, perché ero il protagonista di cuore, mi metto in fila, ossequioso, ero il settimo, al quinto li hanno arrestati tutti. E non mi pento di averli fatti restare, perché erano veramente cretini a non capire che c'era un'urgenza. E da lì ho cambiato la mia versione di cuore, come nel tempo ho cambiato la mia versione di Lolita, chiaramente. Quindi Garrone non ti è mai venuto per la testa? No. Io mi ricordo tre frasi di Lolita. Lolita, non mi ricordo, l'ha letto benissimo prima, tre volte la lingua si inchina al palato, qualcosa del genere. E poi mi ricordo, e alla fine Franti, l'infame, rise. E quando uno ride, per me può essere infame o no, per uomo e fa piacere. Però è complicato. Però è complicato essere Franti in una scuola come quella di allora, ma quella di oggi, cioè, nel senso che poi si finisce spesso ad essere emarginati. Non è il caso tuo. Diciamo. Sì, però attenzione, che adesso non vorrei dire una banalità, però più sei emarginato da ragazzo, più hai una grande occasione da sfruttare, creativamente parlando. Se io dovessi parlare con un ragazzo che si sente o è emarginato, io gli direi, beh, oggi sfruttiamola questa cosa, perché ti può servire. Ciao ciao, disse con voce cantilenante il mio dolce amore americano, morto e immortale, perché lei è morta. E immortale, se state leggendo queste pagine, così almeno stabilisce l'accordo formale con le cosiddette autorità. Poi, mentre mi allontanavo, la sentii chiamare con voce vibrante il suo Dick, e il cane cominciò ad avanzare a lunghi balzi accanto alla mia macchina come un delfino grasso, ma era troppo vecchio e pesante, e ben presto si arrese, e dopo non molto guidavo nella pioggerellina del giorno morente, coi tergicristalli in piena azione, ma incapaci di tener testa alle mie lacrime. Letto l'ultimo, il maestro si alzò e disse: ragazzi, questa è l'ultima volta che ci troviamo riuniti. Siamo stati insieme un anno e ora ci lasciamo buoni amici, non è vero? Mi rincresce di separarmi da voi, cari figliuoli. Se qualche volta mi è scappata la pazienza, se qualche volta, senza volerlo, sono stato ingiusto, troppo severo, scusatemi. E vogliatemi bene. L'anno venturo non sarete più con me, ma vi rivedrò e rimarrete sempre nel mio cuore. Arrivederci, ragazzi. Detto questo, venne avanti in mezzo a noi e tutti gli tesero le mani, rizzandosi sui banchi. Lo presero per le braccia, per le falde del vestito, molti lo baciarono. 50 voci insieme dissero: arrivederla, maestro! Grazie, signor maestro! Stia bene, si ricordi di noi. Quando uscì, pareva oppresso dalla commozione. Uscimmo tutti alla rinfusa. Da tutte le altre classi uscivano pure. Era un rimescolamento, un gran chiasso di ragazzi e di parenti che dicevano addio ai maestri e alle maestre, si salutavano fra loro. La maestra della penna rossa aveva 4 o 5 bambini addosso e una ventina attorno che le legavano il fiato. Noi pure ci salutammo. Come si dimenticano tutti i dissapori in quel momento. Garrone fu l'ultimo che abbracciai nella strada e soffocai un singhiozzo contro il suo petto. Egli mi baciò la fronte, poi corsi da mio padre e da mia madre. Mio padre mi domandò: hai salutato tutti i tuoi compagni? Dissi: sì. Se c'è qualcuno a cui tu abbia fatto un torto, vagli a dire che ti perdoni e che lo dimentichi. C'è nessuno? Nessuno, risposi. E allora, addio, disse mio padre con la voce commossa, dando un ultimo sguardo alla scuola. E mia madre ripeté: addio. E io e io non potei dir nulla. Così, nessuno di noi due sarà vivo quando il lettore aprirà questo libro. Ma mentre il sangue pulsa ancora nella mano che uso per scrivere, tu sei parte della benedetta materia quanto lo sono io. E posso ancora parlarti da qui all'Alaska. Sii fedele al tuo Dick. Non lasciarti toccare dagli altri. Non parlare con gli sconosciuti. Spero che vorrai bene al tuo bambino. Spero che sarà un maschio. Spero che quel tuo marito ti tratti sempre bene, altrimenti il mio spettro si avventerà su di lui come fumo nero, come un gigante forsennato, e lo dilanierà nervo per nervo. E non ti commuovere per la sorte di CQ. Si doveva scegliere tra lui e Humbert Humbert, e si doveva lasciare esistere Humbert Humbert per un altro paio di mesi, almeno in modo che egli potesse farti vivere nella coscienza delle generazioni successive. Io penso agli Uri, agli angeli, al segreto dei pigmenti duraturi, ai sonetti profetici, al rifugio dell'arte. E questa è la sola immortalità che tu e io possiamo condividere, mia Lolita. Cuore di Edmondo De Amicis e Lolita di Vladimir Nabokov. Intervista a Paolo Rossi di Daniele Biacchessi. Voce di Gabriele Falsetta. Riduzione radiofonica di Marco Rampoldi e Guido Scotti. Pagine per il futuro torna a settimana prossima.